Cari amici, abbiamo misurato la pancia, ma questo non basta. Noi andiamo oltre. Scendiamo, dottor Ongaro. Sì. Andiamo. Oltre la pancia, andiamo oltre, c'è sicuramente di più. Con lo stesso metro scendiamo un po' più in basso, misuriamo la circonferenza, l'altezza dei fianchi, il punto più ampio, il bacino fondamentalmente, e dal rapporto tra le due misurazioni capiamo proprio la conformazione a mela a pera, cioè in poche parole, se siamo sopra lo 0,9 nei maschi o sopra lo 0,8 nelle donne, vuol dire che tendiamo ad essere più a mela che a pera. E la differenza fondamentalmente è proprio l'impatto metabolico che questo grasso in più ha, cioè il grasso addominale metabolicamente più coinvolto e semplice, più vicino agli organi interni, basta pensare a questo, più vicino al pancreas, più vicino al fegato, più vicino all'intestino, e proprio per questo gioca con la nostra alimentazione in maniera molto più stretta. Il grasso che infastidisce molto le donne è un grasso più esteticamente fastidioso che metabolicamente, è un grasso in realtà intrappolato, e proprio per questo è anche un po' più difficile da perdere, perché anche cambiando la dieta, se non aggiungo un esercizio fisico mirato a quelle zone, non lo metto in circolo e quindi non viene utilizzato a scopo energetico. Questa è la grande differenza tra i due tipi di grasso.